iniziamo subito un pochettino, un minutino in ritardo, 8.05 minuti, per questo voltiamo pagina puntuale. Invece Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi qui con noi. Tranquilla Silvia, abbiamo possibilità di allargare il nostro roster, ma ovviamente non c'è voltiamo pagina senza la nostra prof. Buongiorno! Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Willy. Cominciamo quindi con playlist musicale allegata a presentazione letteraria. Hai appuntamenti anche tu da portare al termine del voltiamo pagina? Questa settimana no. Questa settimana abbiamo le due pubblicazioni, è in palio intanto anche la tua? Sì, è in palio. Perfetto, certo. Quindi doppio quiz, la possibilità di arricchire la vostra biblioteca, e iniziamo subito. Intanto ho sbirciato, restiamo in Italia quest'oggi. Sì, restiamo in Italia con un librino piccolino, sono circa 150 pagine, molto molto gradevole, che si intitola The Washington Tales. Titolo però che va oltre confine. Aspetta. Sottotitolo I racconti di Vasinto. Allora, adesso lo spieghiamo. L'autore Paolo Tebaldi, edizioni E.O. Dunque, dicevo, non è proprio un sottotitolo I racconti di Vasinto, ma è la traduzione letterale dei Washington Tales. Perché Washington chi è? È un signore che, venendo da quella zona di confine più o meno tra il Pesarese e la Romagna, l'hanno chiamato Washington, però non lo sanno pronunciare. E quindi hanno italianizzato. È diventato Vasinto. Sì, nella zona poi tipica è facile trovare nomi, appunto, strani, e anche una traduzione molto immediata. Quindi come, ci sta. Vabbè, come quelli che si chiamano James e li chiamano James. Certo, ecco, o William. Conosco uno che chiamano William. Certo, William. E ne sono molto orgoglioso di questo. Questo appunto è Vasinto. Vasinto è un signore che è stato, siamo negli anni 50 più o meno, e lui è stato in guerra, è stato prigioniero in Germania e ha questa grande capacità di raccontare. Per cui o intorno al camino, nella sua casa, nella casa di qualcuno, oppure al bar, o dove capita, riesce sempre a radunare un capannello di gente alla quale racconta appunto i suoi Washington Tales, le sue storie, che però non sono storie inventate, sono tutte le vicende che gli sono capitate, magari un tantino esagerate, ma neanche tanto. E la caratteristica di queste storie proprio è che hanno una leggerezza molto, molto gradevole. E cioè, non sono delle fanfaronate, sono delle vicende direi quasi quotidiane, compatibilmente come può essere quotidiana una guerra, tanto per dire, che però lui racconta a modo suo. E quindi vediamo dei racconti in cui si parte ancora prima dalla Seconda Guerra Mondiale, e ci sono tutte le malefatte, ma anche proprio le meschinerie dei piccoli gerarchi fascisti del tempo pre-guerra, diciamo. Poi abbiamo la disfatta dopo l'8 settembre, le deportazioni dopo l'8 settembre, abbiamo il lungo periodo che Vasinto passa in un campo di concentramento, prigioniero di guerra, e le cose che deve fare per sopravvivere. Raccontato così sembrerebbe sembrerebbero tutte vicende, soprattutto queste relative alla guerra, molto tragiche, cupe. Invece lui le racconta con una tale leggerezza che al massimo provi un senso di commozione, ecco, ma certo non sono violente, certo non sono tragiche. Diciamo che siamo sempre sul filo della tragicommedia. Dopodiché c'è il ritorno, c'è la liberazione da parte degli americani, il lungo periodo ancora in cui però non possono lasciare il campo e sono protetti, ma anche in qualche modo imprigionati se vogliamo, dagli americani. Poi finalmente c'è la lunga marcia verso casa, ritorno a casa, che cosa trova tornando a casa, e questa ricostruzione. Vasinto è un falegname, per cui quello che questa è la parte più divertente, diciamo, quello che si trova a fare tornando a casa, i vari lavori che gli vengono commissionati, le persone che glieli commissionano, questi ricastri che glieli commissionano, ma anche il problema, perché lui non è un lavoratore, diciamo, autonomo, anche il problema di lavorare sotto padrone, per questo padrone che quando arriva il sabato tutte le settimane non ha mai soldi scambi per pagare i guarda pagare caso gli operai. Beh, conosco il problema, insomma, ecco. E vabbè, ex operaio. E tutto questo è raccontato nel tipico linguaggio della zona, per cui anche questo rende il libro molto divertente, perché chiaramente ci sono tutti questi neologismi che stanno a cavallo tra il romagnolo e il marchigiano, ci sono queste descrizioni di posti, per esempio Vasinto, sua moglie, i suoi figli e tutti gli amici, quelli che lo ascoltano, abitano nei seminterrati di Pesaro, che sono le zone, o erano, io non lo so perché non conosco la zona, ma sono nel libro le zone dove abitano i proletari e i sottoproletari, però neanche i sottoproletari, diciamo i proletari e i piccolissimi minimi borghesi. Certo, cioè, quindi una zona tendenzialmente medio povera. Ecco. Medio povera, sì. Dove però hanno una grande capacità di ridere, di scherzare, e soprattutto sono molto inclini, contenti ad ascoltare le storie di questo personaggio che, come ci dice e come si vede anche nei racconti, tende anche a ripetersi. È normale, a una certa età capita, conosco loro. Ma capita anche ai raccontatori, che poi sì, tendono a ripetere le stesse cose, ma tant'è che lui viene chiamato, lo chiamano raramente col suo nome, ma è il padre narratore. Ah, lui proprio ha questo ruolo che ha trovato, è stato identificato in questo modo. Padre narratore. E il padre narratore tende a ripetersi, dicevo, ma la gente lo vuole sentire queste ripetizioni. Cioè, certo, quando per esempio lui racconta una storia, a un certo punto fanno come i bambini, dice, e allora quando viene il cattivo? Oppure, e adesso quando ci racconti quello che è successo al mobile antico? Chiedono loro la ripetizione. Sì, ricordo che all'asilo ci facevano ascoltare questi 45 giri in un cappuccetto rosso, l'arrivo del lupo era veramente con un verso terrificante. E tutti allo stesso modo, noi compagni piccoli, ci si guardava, allora quando arriva il lupo. Proprio così. E qui è uguale, cioè, ma come, te ne vai, devi tornare a cena? No, prima raccontaci per favore ancora una volta la tal cosa. E, per esempio, cioè, ed è molto quello che è bello in questo libro, soprattutto oltre al modo come è scritto, è la ricostruzione di un ambiente, cioè la ricostruzione di un'Italia che noi non riusciamo più a conoscere, che forse neanche io ho conosciuta, o almeno ricordo, questa Italia degli anni 50, appunto, che sta per entrare nel boom, ma non c'è ancora, dove c'è ancora questo spirito di comunità, dove per esempio non c'è ancora il frigorifero, la televisione arriva solo alla fine di questi racconti, e comunque in questo momento non scalza il padre narratore, la gente preferisce ancora sentire il padre narratore che andare alla televisione. È un mondo veramente scomparso, per cui io suppongo che una persona giovane, ma anche meno giovane, anche di 40 anni, diciamo, che li legge, coglie un senso di esotico, di favoloso, che in realtà non c'è. Cioè, intendo dire, questo passato che oramai è talmente diverso dal mondo in cui viviamo oggi, appare molto favoloso, mentre in realtà le cose erano così. Cioè, a me per esempio alcuni di questi racconti, soprattutto l'ambientazione, molto bella l'ambientazione di questi racconti, il modo come la gente si raccoglie intorno al padre narratore, i racconti sull'Aia o robe del genere, a me hanno fatto venire in mente quando ero molto piccola che andavo in vacanza a Tolè. Ah. E Tolè chiaramente non era la Tolè di adesso, ma era un borgo sperduto dove c'erano pochi contadini con delle mucche che affittavano camere nelle loro stesse case. Certo, per la possibilità di vacanza, per sfuggire alla calura estiva. E alla sera i grandi giocavano a carte, intanto raccontavano quello che gli era capitato. Ecco. Beh, smuove dei ricordi questo libro anche. Sì, smuove i ricordi di un mondo che non c'è più, che proprio io non penso, ripeto, non conosco la città di Pesaro, ma non penso assolutamente che esistano ancora questi seminterrati di cui lui parla, con questa fauna umana così variopinta. E beh, questo è un valore aggiunto del libro che indubbiamente dal punto di vista emotivo vuol dire tanto. Noi partiamo con la playlist curata da Silvia, anche con la collaborazione del nostro notaio. Sì, c'è stata una collaborazione molto intensa, perché io volevo fare una playlist che fosse in qualche modo un po' folk. Certo. Cioè che fosse in sintonia con questo tipo di libro, e non è stato facile, perché per esempio io di canzoni o di brani pesaresi o romagnoli, se uno non voleva andare su Casadei, ma non ci volevo andare e non ce l'ho, tra l'altro non lo possiedo, con tutto il rispetto, e quindi non mi è stato non ho trovato brani proprio legati a questa zona, però ho cercato, almeno abbiamo, devo dire, perché qui Stefano mi ha aiutato molto, abbiamo cercato dei brani che fossero, che dessero questo senso appunto di racconto popolare, questa sensazione, certo. Di folk italiano, se vuoi, di racconto popolare, di canzone popolare nel senso non di pop, ma proprio di popolo, se vogliamo. Certo, che è una bella parola, nonostante adesso l'abbiano stravolta come significati. Oltretutto, di rientro dopo il primo stacco musicale, intanto ribadisco il numero 333-180-9494, perché a breve daremo il primo quiz, e poi alcune cose da chiederti a proposito, certo, del lavoro che hai presentato. Iniziamo con i Folk a Bestia. Iniziamo con i Folk a Bestia, sì. Bella che porti viole di campo, fa che m'avvicini. Bella che porti viole di campo, un fiore dallo a me. Donna che oggi fili la seta, non pensare a ieri. Viene la sera, l'aria si imbruna, presto sarà festa. Oggi mi sento bene che domani non lavoro. Forse mi vesto bene e ti vengo ad aspettare. E tu, bambina mia, non stare lì con l'aria triste. Godi, bambina mia, che di domani non v'è certezza. Unica luce degli occhi miei, oggi mi vuoi bene. Unica luce degli occhi miei, domani non mi vuoi più. Suonatore, che per te suonare non sia grave. Viene la sera, l'aria si imbruna, presto sarà festa. Oggi mi sento bene che domani non lavoro. Forse mi vesto bene e ti vengo ad aspettare. E tu, bambina mia, non stare lì con l'aria triste. Godi, bambina mia, che di domani non v'è certezza. Unica luce degli occhi miei, oggi mi vuoi bene. Unica luce degli occhi miei, domani non mi vuoi più. Oggi mi sento bene che domani non lavoro. Forse mi vesto bene e ti vengo ad aspettare. E tu, bambina mia, non stare lì con l'aria triste. Godi, bambina mia, che di domani non v'è certezza. Unica luce degli occhi miei, oggi ti voglio bene. Unica luce degli occhi miei, domani non ti voglio più. Beh, Già dal titolo, i Folk a Bestia in playlist portata da Silvia e Stefano, il sabato del villaggio, sì, per infatti. Cui riprende poeticamente la citazione, vi è, ma anche in maniera concreta, l'emozione di quella che è una comunità del tempo, che poi, se ci pensiamo, veramente il tempo è andato in fretta dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, perché certo. Ci sembra lontanissimo, ma in realtà lontanissimo non è, per cui è anche abbastanza inquietante tutto ciò, almeno personalmente, sentendo queste parole e queste emozioni comunicate, sì, anche dal lavoro che hai presentato, Silvia. Ho dimenticato di dire una cosa importante: i racconti non sono raccontati in prima persona dal padre, ma da qualcuno che li ha ascoltati, che li ricorda e che dice, per esempio, che ne dà l'ubicazione, dice dove venivano raccontati, dice e racconta quello che ricorda. Infatti si chiamano tutti frammenti, non racconti. Per esempio, il frammento della vendetta saltata comincia così: il racconto della vendetta veniva bene d'inverno, davanti al camino del seminterrato o al caminone del Rastel, osteria con camera locanda, precisava l'insegna, ma anche davanti a quello della Guercia o del Fanese. Era una storia lunga e presupponeva la presenza di ascoltatori ben disposti e sintonizzati anche dal punto di vista storico-politico. Insomma, gente che non si era scordata delle leggi razziali, della guerra, dei martiri di Fragheto, dei tre ragazzi fucilati dai fascisti a Piazza d'Armi nel 1944. Il racconto invece non funzionava, anzi proprio non partiva, se tra gli ascoltatori capitava, rarissimamente per fortuna, il figlio del giudice che aveva partecipato due volte ai littoriali e poi, dopo la dichiarazione di guerra, aveva evitato il servizio militare per via dei piedi piatti. Beh, è scritto molto bene. È scritto molto bene. Scritto, sì, molto bene. Veramente. Io ho un libro e un autore che scrive molto bene, se non oltre, insomma, questi immediati giudizi che chiaramente vengono percepiti da una lettura che coinvolge non solo per il contenuto, ma anche per l'esposizione. A proposito, hai parlato di frammenti. Questi frammenti all'interno del contesto generale ha un percorso narrativo, cioè sono tanti frammenti portati oppure vi è un contesto? No, non che c'è una lega, cornice. Non c'è una cornice, no. Ho capito. Sono proprio frammenti. A maggior ragione bisogna saper scrivere bene. Sì. Sono proprio frammenti che ricorda in prima persona colui che racconta, spiegandoti appunto che c'era questo padre narratore e quali erano i suoi pezzi forti. Certo. E poi dice all'inizio, proprio dice che poi adesso, dopo tanti anni, io non so neanche se sono storie vere, però a raccontarle bene le storie diventano vere anche se sono inventate. Bellissimo. Perché metà dipende dalla bravura del narratore, ma l'altra metà dalla benevolenza e dalla complicità dell'ascoltatore, che già dai primi accenni, dai preliminari, si rivela disponibile alla ricezione e all'ascolto. A me ricorda tantissimo, siamo in altre zone completamente, e spero che non sia il motivo del tuo quiz, comunque sto parlando di un film, mi pare fosse Tim Burton il regista, sì, e parla di un papà che, in punto purtroppo di lasciare questa terra, ritrova nei figli ai quali ha sempre raccontato un sacco di frottole. Non erano esattamente delle frottole, insomma, ma era una maniera di raccontare che mi ha dato l'idea, non dico di Vasinto, ma quasi, insomma. Sì, quello era Big Fish. The Big Fish, grazie. Di Tim Burton. Sì. Ecco, però lui diceva appunto un sacco di balle. Sì, un sacco, per lui proprio esasperava. E quindi il film diventava anche molto magico, molto fantastico. Mentre queste sono tutte storie vere che gli sono capitate. Le chiamiamo storie, ma sono fatti di vita. Cioè. Però li racconta in un modo tale che diventano degli aneddoti piacevolissimi da ascoltare. Però quando alla fine del film o nel finire tutte queste bugie arrivano con dei piccoli indizi a essere verità, tipo c'è un grande pesce nella piscina e i protagonisti sentono dietro di loro il rumore di un tuffo, ma d'un tonfo, ma non vi è nessuno, danno l'idea di queste immagini, le sue amanti gemelle siamesi che in realtà sono solamente gemelle, ma non sono per nulla con questa definizione, per cui c'è un'esaltazione del racconto che diventa bugia, ma una modalità di narrazione che, come hai detto nelle parole di Sunto, lo rendono poi alla fine una verità, se vogliamo. Non era questo il motivo di quiz? No. Ok, no, no. Quindi puoi portarlo adesso ufficialmente no, in frequenza. No, il quiz restava legato proprio alla location, diciamo, all'ubicazione di tra questi racconti. Terra di movimenti antifascisti importanti, eh? Infatti, però non è neanche un quiz politico. No, no, ho aggiunto così, tanto per il gusto di interrompere. Il pesarese anche proprio è una terra legata anche a importanti personaggi della musica. Sì. Sappiamo tutti che c'è nato Rossini. Ecco, io vorrei sapere invece il nome di una cantante lirica che è nata a Pesaro. Cantante lirica nata a Pesaro, 333-180-94, per avere titolo, autore, casa editrice. Paolo Tebaldi, The Washington Tales, I racconti di Vasinto, edizioni E.O. Modena City Rambles, ci spostiamo quindi dalla Romagna di confine con le Marche alla terra emiliana con questo brano che da playlist mattutina al Voltiamo Pagina, il brano che ascoltiamo, adesso lo vado a rintracciare, L'amore ai tempi del caos. Sì. La radio chiama, il mercante grida, giornalista rincorre menzogne, il mio amore sorride in silenzio, conosce il vero, conosce le cose. Tra guerre sante per nobili affari, gente in caccia di posti sicuri, il mio amore mi parla gentile, non teme i sogni, non teme il futuro. Calza il giorno e si affrettano gli anni, gli orologi inseguono ore, il mio amore cammina tranquillo, nessun tempo la riesce a ingannare. Incalza il giorno e si affrettano gli anni, gli orologi inseguono ore, il mio amore cammina tranquillo, nessun tempo la riesce a ingannare. Era un giorno freddo d'inverno e sulla strada ho incontrato il mio amore. Mentre intorno gente correva, gridava certezze, vendeva opinioni. Pioveva forte là fuori, lei mi ha raccolto e mi ha preso per mano. È arrivato il tempo, mi ha detto dolce, mi ha asciugato e mi ha offerto riparo. Se il vento soffia e grida forte la notte e gelida e scura, il mio amore è un uccello che canta e mi aspetta sotto la luna. Se il vento soffia e grida forte la notte e gelida e scura, il mio amore è un uccello che canta sotto la luna. Brave e bravi, insomma, avete portato due nomi protagonisti, inizio dalla ultima scrittura che dà adito a tutte e due le risposte, però è una ovviamente. Non conosciamo o non conoscevamo, ora sì, Elvidia Ferracuti, ma che sembra il nome di un personaggio di queste storie di Vasinto. Evidentemente, vedi, l'origine territoriale, oppure Renata Tebaldi. Che ecco, era quella che... Che è la risposta, sì, esatta. Allora, adesso andiamo a vedere, a spulciare nel nostro ricevitore di SMS e WhatsApp. Troviamo le risposte e ho già la vincitrice, vi posso dire che è una vincitrice. Salutiamo Luigi che dice: ho recuperato il libro misterioso Tutta la vita che resta. Confermi? Sì. Bene, sì, sì, Luigi sì. Ringrazia e noi contraccambiamo. Elvidia Ferracuti è Andrea in risposta al 333-180-9494. No, ha detto Silvia, beh, indubbiamente per tutto il rispetto che abbiamo per Elvidia, noi hai chiesto una... No, io ho chiesto una importante cantante. Sì, a livello, cioè, di Maria Callas. A livello di Maria Callas, ecco, sì. Arriva anche Paola, puntuale, con Elvidia Ferracuti, non è la risposta esatta, è Renata Tebaldi, la risposta esatta portata da Maria Callas. Grazie, avrà la possibilità di ritirare il lavoro presentato da Silvia Albertazzi presso Libreria Ubic in via Irnerio 27 a Bologna. Chi ha partecipato e magari ha dato risposta immediata con questo nome, che potrebbe essere un personaggio del libro dove il protagonista Vasinto va in narrazione, ricordo, mi raccomando, avete un'altra possibilità subito dopo lo stacco pubblicitario per avere la pubblicazione di cui darò presentazione. Allora, aggiungo un ringraziamento a Libreria Ubic per la collaborazione con il Voltiamo Pagina e anche per avermi fatto conoscere l'autore, che a sua volta trasmetterò subito dopo gli spot. Qualcosa da aggiungere, Silvia, per quanto riguarda la parte di presentazione o le risposte arrivate? Per quanto riguarda le risposte arrivate, Elvidia Ferracuti, penso, il notaio ci ha fatto presente che è il primo nome che no, viene fuori. Dai, non svelare questo. No, scusami, googlando. Quindi per una volta sono ben contenta che chi fa il furbo e risponde con Google può farlo. Però insomma, è un po'... Dopo cerchiamo un brano di Elvidia Ferracuti. Chissà se ai tempi di Elvidia Ferracuti registravano ancora, registravano già. Magari più recente, chissà. Boh. Una sera di primavera, vidi sull'aia di un casolare parecchie coppie a ballare. M'avvicinai e mi dicon: venite, di certo vi divertite. Scusate, ma qui non si sa ricevere come in città. È il valzer della povera gente, un semplice valzer che è fatto di niente. Con due chitarre e un mandolino si balla fino al mattino. Sentite, la musica suona, un povero valzer che è fatto alla buona. Un motivo ritorna alla mente, lo canta la povera gente. Musica. e applausi scroscianti per il soprano Elvidia Ferracuti, che tra l'altro, abbiamo fatto ricerca, ha avuto la cittadinanza onoraria di Pesaro, ma in realtà nasce nel Fermano, quindi infatti, grazie per averci fatto conoscere questo grande talento. No, non vogliamo mica sottovalutare, anzi ci mancherebbe, ma tutt'altro. Però siamo contenti, siamo contenti, sì, che non sia nata a Pesaro, perché noi avevamo chiesto una che era nata a Pesaro. Tutto, siamo più tranquilli. Siamo più tranquilli, sì. Bello il brano Riccardo Tesi e Banda Italiana, che è stato proposto in playlist Il Valzer della Povera Gente. Direi che assolutamente a compimento di questa prima presentazione. Ricordiamo che la playlist sarà riportata anche a termine del nostro video che tra poco andremo a registrare. Allora, Libreria Ubic di recente ha compiuto i 21 anni, quindi auguri. Collaborazione con il Breakfast Club per le stagioni, le ultime due stagioni della rubrica letteraria dei 103.1. E un altro aspetto molto particolare: ho avuto la possibilità di conoscere Fabio Mendolicchio, libraio, e non solo, perché altri talenti, diciamo così, anche la passione del viaggiare. Ha deciso di allestire nella sua Vespa una piccola libreria, piccola insomma, di grande contenuto, fare un giro di alcune librerie Ubic. L'arrivo a Bologna è stato la settimana scorsa per la prima tappa a riguardo del Vespa Tour, e presentare insieme all'autore Grave Disordine con Delitto e Fuga. Ezio Sinigaglia è l'autore che ho conosciuto. Questo libro che vado a portare al Voltiamo Pagina è per voi come premio in palio Terra Rossa Edizioni, collana Sperimentali. Ezio Sinigaglia è uno scrittore che ha una capacità, oltre che nella bella scrittura, perdonate la ripetizione, questo va da sé, ha anche una grande capacità di mettere insieme diverse micro sensazioni. Nella collana Sperimentali non è un caso, anche perché ha questa sorta di apparente leggerezza, ha questa sorta di inquietudine, e portare argomenti, non dico delicati, però insomma, che vanno, anche se in diverse specificità, con capacità di interrogare il lettore in maniera, sì, se vogliamo, con l'immediatezza che vi ho appena descritto, ma anche con una importanza non trascurabile. Grave Disordine con Delitto e Fuga vede un protagonista, anzi due. Partiamo dal primo, è l'ingegner De Rossi, è un manager di successo, colto, sicuro di sé, al cospetto di un incantevole fattorino adolescente, in grado di scardinare l'ordine esatto della sua vita con la semplice forza di una bellezza estetica. Ok, questo è uno spunto narrativo, poi da qui si parte con tante frange di pensiero e di racconto. Anche in questo caso troviamo un lavoro che leggete in un pomeriggio, ma vi posso assicurare che il piacere di questa lettura riempirà ben di più che il tempo impiegato nella lettura stessa. C'è anche un aspetto, se vogliamo, noir all'interno di queste parole e di queste righe. Grave Disordine con Delitto e Fuga porta questo ingegnere, che è di una precisione inquietante, è il tipico ingegnere, cioè lui controlla le pulsazioni attraverso il polso del suo cuore, come cambiano ogni volta che vede questo giovane fattorino che lui stesso definisce l'ultima ruota del carro dell'azienda, che ha dato tanta inquietudine alla sua vita e ha portato un disordine in effetti non indifferente. Questo ragazzo giovane di una bellezza che viene descritta qui dall'autore veramente molto molto, oltre che inquietante, esteticamente forte, dà all'ingegner De Rossi un motivo di innamoramento del quale non riesce più a uscirne. È qualcosa che per una persona, il tipico ingegnere che ha tutto sotto controllo, il ruolo che occupa tra l'altro è molto molto importante, no? E dire, lui stesso afferma, ma come? È l'ultima ruota del carro di queste 14, di questi 14 stabilimenti, di tutti i dipendenti, di tutto questo organigramma societario che vado a gestire tra un ruolo importante. Arriva lui, ecco, tac, e io completamente vado in subbuglio e il mio ordine diventa improvvisamente un grave disordine. Senti, ma l'ingegner De Rossi è gay, ha fatto coming out? No, non è gay. Appunto, no, no, è questo, no, no, il bello. No, no, assolutamente, è una eterosessuale, sì, sì. È una persona come tutti gli ingegneri. Oddio, non voglio cadere, non voglio cadere nello stereotipo. Anche voi ingegneri siete normali, ecco, no, no, non voglio dire questo, anzi ne conosco tantissimi e li saluto. Diciamo che i percorsi professionali li portano a determinate caratteristiche e non è un male, anzi viva gli ingegneri, ci mancherebbe. No, perché chiaramente fa una bella differenza se questo era già gay, no, o se si prende questa cotta. Si prende una cotta e un'attrazione fisica veramente sconvolgente per un ragazzo giovanissimo che si occupa di portare, come in tutte le grandi multinazionali, la posta interna. Mm-hmm. Cioè è... anche in questo caso, con tutto il rispetto, anzi adesso a maggior ragione, per i fattorini. Sì, lui, certo, è quello che viene definito nell'immediato fattorino. Ci sarà l'incontro e questa grande emozione, ci sarà motivo anche di descrizione, sempre con grandissima ironia e una capacità narrativa molto brillante per Ezio Sinigaglia, che ho avuto la possibilità di conoscere in libreria Ubik, e perché no, di portare anche in playlist un brano di John Grant, cantante. Lui coming out l'ha fatto da tempo ed è un cantante e cantautore. Nel suo primo disco, Queen of Denmark, che ho trovato bellissimo, in seguito non è che abbia fatto dei lavori che per il mio gusto personale abbiano stravolto l'ascolto, ma il suo primo disco è veramente molto bello. Ve lo propongo, poi torno in diretta per il quiz e per avere grave disordine con delitto, è perché c'è un delitto alla fine. Eh sì, c'è un delitto, è per quello che ho parlato anche di certi aspetti noir e fuga. Lime, tutti frutti, special raspberry, leave it to me. Three gray scotch, lassie, cherry, smash, lemon, freeze. I wanna go to Mars, where rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars. We'll meet the Goldust twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the lights. Champagne, juicy grapefruit, lucky Monday. L'ingegnere De Rossi aveva raccolto sul mirabile Jimmy tutte le informazioni che era in suo potere raccogliere. Il lieve disordine si era introdotto nella vita dell'ingegnere De Rossi da circa 8 mesi, nel mese cioè di settembre, sotto l'inconsueta forma di un gomito piegato ad angolo retto. La bellezza di Jimmy, a dimostrazione ulteriore del fatto che si trattava di una bellezza insuperata e insuperabile fino a prova contraria, di una bellezza assolutamente fuori dal comune e del logico, aveva ancora questo di unico, che si distribuiva per tutto il suo corpo con equità armoniosa e divina, così che era sufficiente intravedere una piccola luminosa parte di lui per immaginare la grande luminosità dell'insieme. Sconvolto svolto questo ingegnere molto preciso e anche con ruolo importante di responsabilità e di organizzazione in una multinazionale, e l'arrivo di questo ragazzo per un grave disordine con delitto e fuga, Ezio Sinigaglia, edizioni Terra Rossa. Il quiz al 333-180-9494. Allora, un film di recente pubblicazione raccontava di due cowboy, anche in questo caso improvvisamente tra di loro scocca una scintilla d'amore, un amore proibito chiaramente. Beh, io voglio il titolo di questo film di recente pubblicazione, ricordando, per entrare nel dettaglio, che si ritrovano da soli in queste praterie immense portando al pascolo il bestiame, e lì tac, Eros porta la freccia dell'innamoramento tra i due. Mi dite il titolo al 333-180-9494? Your beauty is unstoppable, your confidence unspeakable. Risposta esatta al volo per Andrea Ballanti, quindi non è il nostro super campione che saluto, che scrive I segreti di Brokeback Mountain. Lo so, era un quiz facile, Silvia, però insomma dai, l'ho cercato anche attinente a delle storie d'amore con dei contenuti che possono essere abbinabili. Arriva la risposta esatta anche da Dino, anche dal super campione Andrea, che arriva secondo. Vado anche su un'altra piattaforma che aggiunge una cosa molto particolare. Oh, lasciate stare gli ingegneri che sono dei geni. Sì, no, non ho dubbi, sicuramente. Rispetta la scienza, gli ingegneri sono dei geni. Certo, giù il cappello davanti agli ingegneri. Per me quello che l'ha scritto è un ingegnere. All the doors, I see the walls as they go up. No, it's what you have to do. Andiamo al lavoro, cara Silvia, per quanto riguarda il quiz. È stato portato il premio anche per il grave disordine con delitto e fuga. Ora tocca a noi riportarlo in video dal link www.radiocittafugico.it. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo con il Voltiamo Pagina. Grazie Silvia per questa tua presentazione, che è abbinabile, se vogliamo, come dimensioni del libro, quindi anche in questo caso, e per l'origine italiana dell'autore, degli autori per meglio dire. Appuntamento a mercoledì prossimo, domani in mostra invece al Breakfast Club, sempre alle ore 7. Buona giornata Silvia, e buona grazie, giornata a te, buona giornata a tutti. A voi.